Non vi è mai nato il dubbio, arrivati a un certo punto, che non vi fosse un vulnus nelle pieghe del racconto, che nonna e cacciatore lo avessero rimosso, che non reggesse l'alibi di Cappuccetto Rosso, che sotto quel visino dall'aria provinciale ci fosse assai di più d'una innocente collegiale, ma per seguire al meglio l'intero fatto cupo, sentiamo il nostro inviato presso la casa del lupo. Cappuccetto Rosso non era così santo, giocare con il lupo le piaceva proprio tanto. Andava dalla nonna passando per il bosco, ma era solo una scusa per qualche affare losco. La nonna con indosso biancheria contenitiva aveva lasciato al lupo proprio una bocca cattiva. Questo parrebbe dunque il movente della tresca, doversi far la bocca con un po' di carne fresca. Intervista shot col cacciatore, destato all'improvviso da un rumore. Sì, signora. Ho sparato a un'ombra con la gonna. C'era di lupo e non di nonna. Sì, signora. Ora sto indagato per abuso. Sì, dormo col piccone pronto all'uso. Sì, signora. La pettegola vicina, dove si dice un polpo abbia spolpato una gallina. Mistero tra le piume sono scomparse anche le uova, pare le abbia rubate un vecchio riccio che le cova. Ora che anche il polpo è un brodo che è una sciccheria, il riccio è scagionato, non è più pedofilia. Ma il traffico di uova quello appare assai sospetto, e già si allunga l'ombra sulla nonna e Cappuccetto. Intervista shock col maresciallo. Comandi. L'intercettazione tira il lupo in ballo. Sì, sì, sì, sì. S'aggirava avvolto in uno scialle. Comandi. Dichiara il polpo ma di spalle. Sì, sì, sì, sì. Superfluo è l'incidente probatorio. Ora il lupo è steso all'obitorio. Sì, sì, sì, sì.